Vedi, questo rumore qua della penna lo faceva impazzire il mio professore di latino, John Geli Derungs. John Geli nome, Derungs cognome, romancio. Lo faceva impazzire. E lui spiegava, e tu te lo stavi ascoltando e facevi... Beh, lui attraversava l'aula e veniva davanti al tuo banco e ti dava una sberla. Bitte. E tu te lo guardavi e facevi... Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K. E un saluto da Drago. Bel giovedì, è quello che ci voleva a questo punto della settimana. Drago, per bel forza, giovedì. È giovedì. E così domani è venerdì. Non è che c'è tanta scelta, appunto. Vabbè, ma oggi giovedì. Va bene che sia giovedì. Ma certo che va bene, è giovedì, K. Sì, ma ci sono dei lunedì, ad esempio, che non dovrebbero essere lunedì, capito? Dovrebbero essere almeno dei martedì. Ma non ho capito niente. Sei tu che hai capito. Hai idee strane sui giorni della settimana. Per me sono tutti uguali, scusa. Perché sei un uomo gretto. Grazie. Prego, ma non ti astrai mai, Drago. Astraiti, Drago. Astraiti cosa? Astraiti. Ma scusa, se è giovedì. È giovedì, posso immaginare anche che sia domenica, ma non cambia niente. Sì, ma tu giovedì, devi pensare che il venerdì è così vicino, che ormai è come se fosse venerdì, capito? Se. Ucronico. Il come se è importantissimo. Sì. Sì, si usava anche nei linguaggi di Basic di tanti anni fa, no? As if. Ma no, as if, ma sei sicuro? Guarda, certo. Che era if una cosa, then un'altra. Cioè, se, allora, as if non può essere un concetto logico. Scusa. Cosa ne sai tu di logica? Ma as if è quello che dicono i bambini. Facciamo che se io ero un cowboy, tu eri un indiano, quelle cose lì. Tito! Dai. Ma di cosa stai parlando? E che ne so, dobbiamo ancora cominciare. Già non capisco dove siamo arrivati. Non so. A parte che i bambini non dicono facciamo che, ma dicono facevamo che io. Facevamo che io ero un cowboy. Vabbè, non sai niente, tu di bambini. Sei qui a fare la trasmissione sull'infanzia. Non lo so cosa stiamo facendo. C'hai lì gli appunti. No, ma era tutta roba di una settimana fa. Vabbè, ottimo. Questa settimana ho avuto dei problemi con internet. Ottimo, che questo, Drago. Aver dei Non si può dire ho avuto dei problemi con internet. Perché? Ma vabbè, Drago. Cioè, tutto bloccato. Ma tutto bloccato cosa? Si rompe internet. Sì, c'era una puntata di South Park in cui si era rotto internet in persona. E andavano a cercarlo in una caverna, c'era un router gigantesco. A me è successo uguale, perché il gestore è dovuto andare in un altro appartamento, anzi in un altro palazzo, a cercare la causa del guasto internet. Di casa mia. Non l'hanno lasciati entrare perché sono in causa. E quindi non hanno aggiustato niente. Io sono ancora lì che aspetto. Cioè, tu paghi e non hai internet. Niente, non nemmeno la televisione. Non faccio niente. Io di sera a casa sperimento il ritorno a un'epoca che non ho mai vissuto, in pratica. Cos'è, io il lume di candela? Io sono nato con la TV accesa, non ho mai vissuto una sera della mia vita in casa senza dare un'occhiata alla TV e una internet alternandole. Capisci però che dura adesso? Internet, finisce sempre con internet a tarda notte, certo. Infatti, anche secondo me. E adesso non posso fare niente di tutto quello. E cosa fai? Ascolto la radio. Cosa c'è? È sfigato! Ma K! Ma cosa ho detto? Siamo in radio! Ah, già! Allora, questo ukulele è scordato. Io dovrei attaccare con le persone saria. Allora, c'è qualche persona saria che sì, sa accordare un banjolele? Allora, se non fai la sigletta, io passerei direttamente a Remo Ricchetti. Passiamo direttamente a Remo Ricchetti ci propone 5 persone sarie interessanti. Al primo posto c'è Massimo Cirri, che è il conduttore di Caterpillar, psicologo e persona a suo modo saria, no? Sì. Saria, anche un po' malinconica. Scusa, al numero 2 mettono il classico Stefano Rodotà, di cui ricordiamo però l'acclamatissimo speech del 2010. Io penso che viviamo una regressione culturale, una regressione civile. Una regressione morale e anche una regressione politica. Ecco, grazie. Tutti in piedi per il padrino ideologico di Chiedo Asilo, Stefano Rodotà. Al numero 3 della classifica di Remo troviamo l'architetto Mario Marenco. Ma questa di Remo, è una provocazione. Diciamo, non ho capito. Di Remo. Lo diremo poi? Questo è molto divertente. Mario Marenco, K, ti dice qualcosa? Mario Marenco? Se hai meno di 40 anni non sai chi è Mario Marenco. Eh sì, è quello che in Quelli della Notte interpretava il bambino Riccardino, progenitore del bambino Alberto, tra l'altro, certo, in qualche maniera. Ma nessuno se lo ricorda. Nessuno se lo ricorda. Laura Faggin, per esempio, fa una faccia che è tutto un programma, guardala lì. Eh sì. Se avessimo la webcam e inquadrassimo Laura Faggin in questo momento, vedremo che non porta la biancheria intima. No, vabbè, vedremo che è tutto un programma, appunto, la faccia. Beh, al numero 4 un altro burlone, cioè Alfredo Cerruti. Sì, però io sto ricordando. Adesso guarda, continuo a guardare la faccia di Laura Faggin, che già Ceruti. Un altro programma completo. Alfredo Ceruti, ex boyfriend di Mina tipo 50 anni fa, componente della band fantasma degli Squallor, uh-huh. E credo anche voce della Volante 1 in Quelli della Notte, sempre di Arbore. Credo di sì, credo quello nel tombino anche. Eh sì, anche, forse lui. Sì. Pisapia si chiamava, dottor Pisapia. No? Ma non è Pisapia l'avvocato, no, padre del sindaco? No, certo, perché ricordiamo che l'avvocato Pisapia, padre del sindaco di Milano, purtroppo ormai da qualche anno è morto. Chiude la lista delle 5 persone sarie di Remo Ricchetti Frankie High Energy, che è un amico di Chiedo Asilo, vero Frankie? Beh, ci sta sicuramente ascoltando, salutiamolo. Ciao Frankie! Allora fate come Remo, mandateci le vostre 5 persone sarie preferite, ma non fate come Remo che ha messo Marenco e Cerruti per provocare. Metteteci delle persone davvero sarie, no? Le persone sarie, che poi Remo ha messo anche Frankie. E quindi Frankie è uno molto serio. È serio Frankie, non sario. Forse hai ragione, essere sario è un'altra cosa. Un rapper sario non può mica esserci. Un rapper sario no. Corona è uno sario. Ma Corona chi? Il marito di Belen? Ma no, Corona, quello romanziere montanaro, quello con la bandana. Ma non quello in mutande? No, no, quello con la bandana, capito? Lui è sario con la accentata. Sì, cioè se non ha trincato una bottiglia di grappa è sario. Se no, se beve diventa poco sario. No, se beve diventa sincero. E quindi? E quindi ti dice che in realtà lui si è rotto le palle da 20 anni di far la parte del montanaro genuino e che vorrebbe vivere in una suite d'hotel a New York circondato dalla modernità. Basta cacca di pecora! Eh sì, meglio le lenzuola di seta, no? E basta grotte della montagna! È meglio la suite, l'albergo, no? E basta e dategli dello champagne. Bella questa versione sincera di Corona. Basta, solo che poi, basta. Così ubriaco e sincero tutto. Non è più sario come piace all'italiano indignato medio. Sarà poco sario, però sempre va bene, sempre che beve la grappa. Simsalabim, simsalabim. Senti, come hai capito? È il mago Silvian. Ah. Se volete altre performance del mago Silvian, chiedetecela a gran voce al numero 02 46 52 44 95 oppure via mail a chiedosilo @radio24.it. Canta con me, capo. Ma quello dai. Che sto massacrando. Non è un pezzo di Luigi Sakamoto? Sì, è di Luigi, però la cantava il mago Silvian.